No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parenzo, devi stare addosso a Cruciani come Gentile su Maradona, non dargli un metro in mezzo. Ma perché ce l'hanno tutti con quel povero cucciolo di Parenzo? È Cruciani lo stronzo. Allora, c'è un caso particolare in Piemonte, se non sbaglio, a Torino, in cui due Rom musulmani sono stati assolti da un giudice dopo aver sgozzato in strada un capretto. Cioè, hanno sgozzato in casa, in strada, un capretto e sono stati assolti. Lo sai perché? Pare che non abbiano rispettato delle regole sullo sgozzamento del capretto, eccetera, eccetera. Ma sono stati assolti perché il rito religioso prevale sulla crudeltà verso gli animali. Sì, sì, certo, questo è chiaro. Cioè, sono stati... No, è chiaro un cazzo, cos'è chiaro? Non è chiaro, è chiarissima la sentenza, ce ne sono molte altre anche. Cioè, non ho capito... Cioè, ha la preminenza l'aspetto della tradizione... Sì, no, ma è una sentenza chiarissima. Sentenza giusta, dunque. Beh, ci mancherebbe altro, certamente. Rispetto delle... Della tradizione. Ah, cioè, la religione può adesso fare tu tutto. Dirai, la religione può fare violentare tutto le donne. Certo. No. Come no. Come no? La sentenza non dice questo, dice semplicemente dice che in questo caso prevale la religione sulla crudeltà nei confronti degli animali. Lo dico io che certamente non sono un animalista convinto, non tutt'altro. Non lascia la possibilità che uno maltratti non le entrare, donne. Non lascia perdere questa roba qua, non entrare nella discussione leguleia. Allora la questione è molto semplice. Se è reguleia per i giudici, i giudici hanno fatto prevalere il diritto costituzionale, che è quello della libertà di religione. Per i giudici il rito religioso prevale sulla crudeltà verso gli animali. In base alla Costituzione è così, certo. Ma non so in base a che cosa. Beh, è una follia totale. Ma non c'entra nulla l'aspetto delle donne o degli uomini. Questo riguarda un aspetto che è quello della macellazione rituale. Cioè, come cazzo fai a dare ragione a questi giudici che hanno detto... Adesso telefoneranno e diranno, no, perché se vuoi entriamo nel merito, perché la conosco la cosa, l'ho discusso proprio stamattina. Perché no, ragazzi, la questione è molto semplice. Se tu, lo dico io che ripeto, non sono animalista, se tu compi atti di crudeltà non previsti dalla legge non verso gli animali... è la macellazione rituale islamica, che non è... Sì, l'hanno fatto in maniera irregolare, solo che crudele. prevale questa roba qui, c'è la religione, nel piuttosto... Nel senso che non l'hanno fatto in un macello, fatto per strada, ragazzi, forse le cose vanno fatte dove moschera, le cose vanno fatte dove vanno fatte, non vanno fatte in un altro posto. Li avranno sanzionati, diciamo, per l'aspetto sanitario, ma non per l'altro aspetto, quindi credo... Immagino, immagini intanto. No, intanto c'è un deputato dei 5 Stelle. Ma che la si conosco chiama... quella vicenda. Sì, c'è un deputato dei 5 Stelle che si chiama Martelli, secondo il quale il matrimonio dovrebbe essere anche tra 4 o 5 persone. Questo non è islamico, però senti, è in italiano. Senti, Martelli, esattamente. Se uno voleva veramente fare qualcosa di avanzato, come per esempio fanno i buddisti, doveva prevedere qualche cosa di plurimo. Perché non possono sposarsi più persone? Stipulano degli accordi multipli. Questo è un livello di tutela sociale, perché se veramente si dice che l'amore deve essere libero, allora anche 4, 5, 6 persone debbono potersi sposare. In Italia non si è avuto mai il coraggio di mettere in discussione il fatto che il matrimonio debba essere una cosa binaria a due. Anzi, questa cosa viene continuamente venduta come famiglia naturale. Ma naturale di che? La natura non prevede questo. La natura ha sempre previsto qualcos'altro. Il matrimonio binario è una costruzione sociale data da un certo tipo di religione. Allora, guarda, sembrerà una follia. Ti sembrerà una follia. Ma quello che dice Martelli non è sbagliato. Cosa naturale di che cosa? Chi è che lo decide che cos'è la natura? Anzi, in natura forse ci sono cose diverse. E addirittura, dice Martelli, ci potrebbero essere dei vantaggi in termini di economia di scala. Io non sono d'accordo, lo dico subito, perché per me comunque se uno si vuole sposare il matrimonio è quello a due, punto e basta, tutto il resto sono tutte cazzate. Però lui dice che ci sarebbero dei vantaggi in termini di economia. Sentiamo. No, questo... Con le evidenti economie di scala che si otterrebbero in termini di tutela dei minori, perché se un bambino ha più genitori non è più ostaggio delle eventuali liti tra due. A Martelli questa è una cazzata, cioè, anzi forse ci sarebbero più liti ancora, cioè, pensa a risolvere controversie tra 4, 5, 6 persone piuttosto che tra due persone. Cioè, sto Martelli deve essere un tipo particolare, però, eh. È forte. Nah. Allora, ragazzi, la vicenda Corona, il Costanzo Show di ieri sera, uno contro tutti, eccetera, eccetera. Allora, Corona, signor Corona contro... Sentiamolo prima contro Nuzzi, senti. Lei è un pluripregiudicato, quindi questo è un dato di fatto grado e che lei faccia il messia dicendo, spargendo sentenze, quindi hanno sbagliato i magistrati. Vogliamo parlare di quello che ha fatto lei? Lei è indagato? Fabrizio, stiamo parlando. Le sto chiedendo. Lei cosa ha fatto? Lei ha rubato dei documenti e ci ha fatto un libro. Io ho rubato dei documenti. È stato condannato, Fabrizio, dal Papa. Lei. Sono stato condannato dal Papa. Il Papa ha detto dicendo? Che lei ha fatto una cosa sbagliata. Fabrizio. Di che cosa parla? No, lei è indagato esattamente come me. Tra 5 anni. Lei è patetico, Fabrizio. Io non ho rubato nessun documento. Poi sai cos'è? Sai che cos'è? E di questo ne risponderà perché è diffamazione. Cioè, Corona paragona la sua storia criminale a quella, alla storia invece di Nuzzi, che è una storia di un giornalista che fa il suo mestiere e che è accusato da parte dello Stato Vaticano di aver trafugato dei documenti, da parte dello Stato Vaticano. Non mi risulta che ci sono state delle sentenze, dunque Corona dice delle cazzate spaventose. Lei è stato condannato dal Papa. Pazzesco. A parte che essere condannato dal Papa dovrebbe essere una medaglia, secondo me, più che altro. Ma comunque... No, la cosa più incredibile è che Corona vuole dare ancora lezioni di comportamento, e quella è la cosa più fastidiosa. Poi ognuno si difende come si può difendere. Beh, è apposta, però. Dai. Cioè, vuole dire che lui è stato, per esempio, capito, una specie di... Cioè, non è stato un cattivo esempio, capito? No. Non è stato un cattivo esempio. Una brava persona è stata. E poi c'è Chi Paone con la frase che è stata oscurata incredibilmente, secondo me, da Mediaset, da Rete4, quello che è. Cioè, quello che ha detto Corona a Cecchi Paone. Lei lo sa la mia storia di vita, la mia storia lavorativa. Si inventa una bella fabbrica. Chi? Dove lavora. Ma lei tutta cosa, lei cosa, si, regione, però lei dire cosa una... si è inventato? Ma io non sto. Vuole che io l'attacco no, nella io pochezza come qui. Lei ha attaccato io non, me? Io non sto attaccando. Lei ha strumenti. Le vuole sapere cosa ha strumentalizzato volta. Lei? No, io le vuole sto che dicendo dico? Da anni. E poi c'è la voce di Corona, sembra che Corona abbia detto lei ha strumentalizzato gli omosessuali, oppure secondo alcuni ha parlato anche di calciatori gay, cioè lei ha strumentalizzato l'omosessualità per farsi pubblicità. Non mi sembrava una frase così grave, chi se ne frega della frase. La cosa incredibile è che è stato tolto l'audio, cioè ma una cosa pazzesca, cioè uno fa uno contro magari tutti e poi toglie, ma che è saltato? L'hanno tolto apposta, no? L'hanno tolto apposta perché era un attacco di Corona a Cecchi Paone sull'omosessualità, e chi se ne frega, fatelo sentire, qual è il problema della frase tagliata, perché uno deve tagliare la frase? Non capisco, cioè sono quelle cose incomprensibili, cioè uno contro tutti, a meno che non gli abbia detto afrocio, pezzo di merda, cosa che peraltro ci sta in uno contro tutti, se uno fa un programma di quel tipo, cioè una frase contro Cecchi Paone, poi Cecchi Paone se n'è andato, censurata da Mediaset, bah! Crucia, ma io che sto a Malta, ma che cazzo me ne frega del traffico? La Zanzara. Oh, Allora, prima o poi bisogna dire qualcosa sulla vicenda di Livorno, perché i 5 Stelle però non possono fare i giustizialisti con gli altri. Appena arriva un avviso di garanzia, parlano di PD, partito della mafia, eccetera, eccetera. Poi arriva un avviso di garanzia. Io sono contro la dimissione del sindaco di Livorno. Il sindaco di Livorno deve rimanere al suo posto. E anche il PD l'ha detto, infatti. Sì, oggi. Sì, sì, ma lascia perdere quello che ha detto il PD. Però la cosa assurda è questa, che loro fanno i giustizialisti con gli altri, poi arriva un avviso di garanzia al sindaco di Livorno, che è sempre un avviso di garanzia, per me non si dovrebbe dimettere, e dicono no, bisogna vedere nelle carte, c'è avviso di garanzia, avviso finalmente di garanzia. Fanno i distinguo, cioè, cosa distinguono che è tra un'inchiesta e l'altra. Cioè, mi pare veramente una civiltà. Sì, ma ho capito, benvenuti nella civiltà, però dovrebbero regolarsi così con tutti, eh. Ah, certo. E dai. E vogliamo parlare anche della Boschi, che ha paragonato chi... chi dice no, chi dice no al referendum, quello costituzionale, a Casa Pound. Cioè, chi voterà no, voterà come Casa Pound. Ma ora che cazzo c'entra Casa Pound? Casa Pound vota come vuole Casa Pound. Non è che uno che vota no al referendum quando sarà a ottobre e non ce ne frega una mazza per adesso è come Casa Pound. No, uno vota no perché è convinto che quella riforma non vada bene. No, lei usa uno strumento giusto di propaganda, come dire, sappiate che le vostre posizioni sono le stesse di quei fascisti di Casa Pound. Ma sì, ma non c'entra un cazzo, quelli che voteranno no voteranno no, voteranno no a Renzi, cioè sarà un referendum su Renzi. D'altra parte, lo stesso Renzi dice che se perde il referendum smette di fare politica. Se io perdo, con che faccia rimango? Cioè, scusate, ma... E lei conferma, cioè, qualora si... il referendum... Ma non è che smetto, non è che vado a casa, smetto di far politica. Perché, scusi, questa non è personalizzazione, questa è serietà verso i cittadini. Oddio, abbiamo mandato un audio di Renzi dopo non so quanto tempo, eh? Dopo non so quanto tempo. Berlusconi, senti che cosa fa a un convegno elettorale a Milano, credo, eccetera. Senti cosa dice su Bertolaso e poi gli arriva un pizzino su Marchini. Io avevo proposto Bertolaso, che era un campione del fare, mentre invece tutti gli altri candidati a Roma sono campioni del bla bla bla. Sì. Sì, sì, va bene. Mi dicono bisogna chiarire che su Roma Marchini è la persona giusta. Ve lo dico io, credeteci, è la persona giusta. Boh, mi sembra di sognare, eh. Cioè, o è tutto uno sketch oppure mi sembra veramente di sognare. Cioè, con entusiasmo. Mi sembra di sognare, mi sembra di sognare. Vincenzo da Lucca, vai, cominciamo, vai. Pronto? Dimmi, Vincenzo, dimmi. Allora, ti dico soltanto una cosa sola, una cosa: sono circa 6 anni che sono costretto a dormire in casa mia, in gabinetto, sì, con la maschera antigas. Non sono né matto, né psicopatico, né... Beh, scusa, no, scusami, sì. Vincenzo, abbi pazienza, tu ci chiami dicendo che da 6 anni dormi nel gabinetto, sì, di casa tua. Io, cosa improbabile, perché non credo che tu dormi ogni sera da 6 anni, no, in gabinetto. No, devo dormire in gabinetto per un motivo molto semplice, perché la porcellana non assorbe dell'olio minerale che sono in casa, degli extracomunitari che, siccome mi considerano un confidente della polizia, hanno deciso che io devo lasciare questa casa, devo andarmene via. No, io, però scusami, Vincenzo, dove non abiti esattamente? A Lucca, io no? Io abito in una zona periferica che non voglio specificare oltre. Non vuoi specificare? In cui c'è una, sì, se c'è un accesso di extracomunitari di origine centroeuropea, non posso dire di più perché non... Non puoi dire di più, non dici un cazzo. Scusami, diciamo, Vincenzo, ma non è qui, non è la Spectre questa qua. Tu abiti in non una zona... In una zona... Io aspetta. Io i soldi per pagarmi un avvocato, se mi fanno una... No, ma io ti vengo incontro, ti vengo dietro. Allora, Vincenzo, ma tu... Ma devi venirmi incontro, non per me, ma per altre persone... Vabbè, adesso non è che qui può diventare però lo sportello, prima quello di Volpiano, poi adesso quello di... Va benissimo, per carità. Ascoltami, però Vincenzo, scusa un attimo, spiegami... Sì, ma mi devi spiegare bene... Vincenzo, non hai a che fare con un psicopatico, hai a che fare con uno specchio della realtà che viene molto spesso ignorato. Vabbè, allora dimmi una cosa, tu abiti in periferia a Lucca, giusto? In una casa... Sì, diciamo così, non è Lucca, è un'altra città, però non posso dire di più. Ecco, io sono entrato in conflitto con degli extracomunitari, il comune di questa città ha dato la casa. Queste persone che sono dedite a dei fatti abbastanza... Che fanno? Spacciano? Che fanno? Prostituzione. Allora... Ma non può denunciare in questura tutto? Allora, cosa è successo? No. Che loro mi considerano un confidente. E allora? E allora cosa succede? Vogliono che io vada via da qua, perché mi considerano un pericolo. Vabbè, allora che fanno? Io sono un pensionato che becca 1.100 euro al mese. Dunque? E che spende 500 euro d'affitto. Come cazzo faccio a trovare i soldi per pagare un'altra casa? Sì, ma cosa succede? Cosa fanno questi succede qua? Succede che queste persone giornalmente provocano, giornalmente fanno in modo che io faccia qualche cosa tale per cui loro abbiano la giustificazione per massacrarmi di botte. Io ho 65 anni. No, però scusami, Vincenzo, ma tu mi hai parlato di un'altra cosa, delle maschere a gas. Che cos'è sta storia? Sì, maschere a gas, cosa vuol dire? Vuol dire che uno degli espedienti che queste persone trovano per cercare di allontanarmi è, sapendo che io sono cardiopatico, spruzzare in tutta la mia casa, soprattutto nelle zone porose dove c'è il legno, dell'olio minerale in modo che gli impedisca di respirare. Non sto scherzando, Cruciani. È una storia terribile. Ma che cosa buttano con questa? Ma vada in questura, vada in questura. Ma cosa ci vai a fare in questura? Cosa ci vai a fare? Beh, a denunciare queste cose qua, scusami. Ma cosa denunci? Cosa denunci se te non c'hai degli elementi probatori tali che li possano incastrare, ragazzi? Ma come dormi? Spiegami un attimo come dormi, non ho capito bene. Io sono costretto a dormire, lei ha presente Cruciani, che in un bagno ci sono elementi in porcellana. La porcellana non assorbe questi oli. Cioè tu dormi ogni sera nel cesso? Ascoltami, sono costretto a fare questo. Sai quanto ho aspettato? Ma come fai a dormire in un cesso? Lo sai quanto ho aspettato prima di telefonare a te? 6 anni. Perché mi vergognavo. Capisci? Mi vergognavo. Io ho aspettato 6 anni. Ma scusa, in questi 6 anni non hai fatto denuncia e vivi e dormi. Denuncia non mi fare parlare perché. Beh, non mi fare parlare. Se per aiutarti, come faccio, amico mio? Sì, mi devi... Ma per aiutarmi, puoi aiutarmi in forma privata, darmi la possibilità di chiamare te, perché te sei una persona estremamente potente. Sei una persona. Ma non sono potente per niente, amico mio. Io voglio capire una cosa. Spiegami sta cosa, Vincenzo. Sei molto potente perché hai accesso a determinati chiavi di buono mediatiche che io sì, non ma non ho capito. D'accordo, però amico mio, spiegami una cosa. Come fai a dormire in un cesso? Ti metti un materasso? Come faccio a dormire in un con un materasso? Immaginalo te. Immagina una persona di 65 anni. Ma no, ma dai, avrei messo un materasso al bagno, dai. Sono costretto a fare questo, porco Dio. No, dai! Smettila, dai! La parola che ho detto. Ma dai, su, mamma mia. Guarda, Parenzo, te sei una persona estremamente sensibile, mamma. Molto più sensibile. Ma come si fa? Ma come dai, su, ma Vincenzo, come si fa? Su. Ma perché? Perché? Ma perché devi rovinare così? Tutto così? Perché devi dire così? Perché? Ascoltami, Cruciane. No, Vincenzo, dai, basta, meno ti coglioni. Meno ti coglioni, ciao, basta, ciao. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus, il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Luciani, posso dirti una cosa? Allora, te dai dell'ipocrita alla Meloni, che prima non voleva candidarsi e adesso si è candidata. E invece pensa un po' te, dici che è un numero uno Trump, che dopo aver insultato gli immigrati adesso fa marcia indietro su tutto. Cruciani, te lo dico da ragazzo di 19 anni, sei un ipocrita e un poveretto. Ovviamente non è andata così. Non è andata così, sono due cose diverse, dire di non volersi candidare, poi non è che ho detto che è ipocrita, ho detto che è ipocrita per altre cose magari, non per il fatto che non si voleva candidare e poi si è candidata, quello può succedere. Trump fa strategia elettorale, prima attacca a destra e a manca e adesso cerca, una volta che ha quasi cerca ottenuto... Cerca di fare il presentabile. Cerca di fare il presentabile, cosa che è. Ma ripeto, se vince 2 mesi di astinenza sessuale, se vince, da parte del sottoscritto, Io sono grande tifoso di Donald Trump. Scusa, ma una persona normale, se ha di fronte, ma è vomitevole, se ha di fronte, ma che vomitevole, ma va. Vomitevole. Ma se, una persona normale, secondo te, peggiori istinti americani. Ma quando mai peggiori istinti americani? Peggiori ma, istinti, ma come parli? Della società. Ma come parli? I peggiori istinti peggiori americani. Istinti. Cioè, come si ma chiama? Che vuol dire? Non vuol dire nulla. Vuol dire tu? Come ma non vuol dire vuol niente. Dire, vuol dire tante niente. Cose, i peggiori c'è istinti. C'è il vuoto, c'è questa frase qua, non tu, eh. Ma questa frase, i peggiori istinti americani. Non vuol dire niente. Ma chi l'ha detto che non è una frase niente. Vuota di significato. Ma vuota. Come, ma è pienissima e allora, di una persona istinti. Normale, insomma, si trova di fronte Hillary Clinton e Donald Trump. Ma cosa vota una persona normale? Il signor Trump. Ma Hillary Clinton sicuramente, perché non gli affida neanche il condominio a Trump, ma neanche il... Allora ragazzi, io vi prego di convergere, per chi è nelle zone, verso la Super 36, la superstrada immagino, o forse si chiama così, a Nibionno, credo dalle parti di Lecco, dove c'è una prostituta di 79 anni, quasi 80 anni, classe 37, la stessa di Vittorio Emanuele di Savoia, dice lei, che si prostituisce 79 anni, per mantenere il figlio cieco. Allora, cari amici, non solo autisti, aiutatela a non prostituirsi. Non diciamo. Solo camionisti, ma se si vuole prostituire, si prostituisce pure. Non è che dico io aiutatela a non prostituirsi. Prende la pensione minima. Se ha il figlio cieco e ha bisogno di soldi, si deve prostituire allora, per necessità, meglio aiutarla in altro modo, poveretta, mi pare. Ha 80 no? anni, fa la prostituta per mantenere il figlio cieco. Prende la pensione minima di 500 euro. E che qualcuno l'aiuti, no? I soldi non diciamo, bastano. Andate a prostitute. Andate, in questo momento, poi se qualcuno la vuole aiutare, l'aiutasse. Convergete datele verso dei soldi, aiutatelo pure. No, se uno vuole servirsi tra virgolette di questa signora di 79 anni, ma è disperata, ma come, ma che ne sai, non ci hai manco parlato, che ne sai che è disperata, ma detta come l'hai detta tu, cioè si prostituisce perché ha un figlio allora, cieco e non mio ha soldi, marito è mancato evidente. Mio marito è mancato mentre mio figlio a causa del diabete è praticamente cieco, prima provvedeva lui a me, adesso è il contrario, mi pare che è evidente che si prostituisce. Aspetta, per necessità, tra affitto, quindi. Bollette e medicinali, i soldi poveretta. Non sono mai sufficienti e allora eccomi qui. Prova vergogna. In altro modo. Prova vergogna. No, perché dovrei? Non rubo mica e non faccio del male a nessuno. Anzi, la signora ha anche dei precedenti, cioè, aveva fatto già la prostituta per un periodo. A qualcuno faccio pena, mi chiede perché mi venda la mia età, allora mi allunga qualcosina di più. Bene. Non guadagno tanto, ma almeno mio figlio e io riusciamo a campare. A me importa solo questo. Amici miei, mi dite voi che cosa c'è di male? Qual è il punto fondamentale? Dal racconto che ha fatto a un giornalista di Il Giorno, beh, è un racconto meraviglioso, io lo trovo. Un racconto certo. Disperata, ma che ne sai la disperazione? Ma come che ne sai? Ve lo dice lei. Ma il tuo cinismo dove arriva? No, ma è una non povera arriva da nessuna parte. Questo signore, ma come si fa questa a dire signora a prostituta, aiutatela, il comune faccia qualcosa. Innanzitutto aiutatela anche se magari volete andare con qualcuna più giovane. Aiutate questa signora anziana di 79 anni, di 80 anni, a prostituirsi, perché evidentemente no, aiutatela quella... Datele dei quattrini, poi se volete la prestazione bene, se non la volete fa lo stesso, andate lì. Cioè, si trova. Se uno si prostituisce per disperazione, è un dramma, non è una cosa la Super bella. 36 di Nibionno. Dunque, le tantissime persone che sono in ascolto adesso, convergete lì, passatecela al microfono, grande happening. Super 36 di Nibionno, pare che si sia spostata verso un'altra destinazione. Ci vogliamo parlare assolutamente. 80 anni, faccio la prostituta per mantenere mio figlio cieco. Grande dignità. La prostituzione serve anche a questo, a mantenere il figlio cieco. Beh, magari terribile. Vuole cambiare mestiere. Prima di dire una disperata, sono nel dramma, eccetera, eccetera. Ci voglio parlare. Sì, ci è voglio parlare. Mi sembra, no? Ma non felice. Lo so, per te tutto è terribile. Ma no, è tutto terribile. Un cazzo, questa storia mi pare terribile. Ma non perché sono un moralista, tutt'altro, ma perché mi sembra terribile letta è terribile, così. Vabbè. Paolo D'Ancona. Ancora, cioè, vai, ma è normale che una persona si debba prostituire per mantenere un figlio e non c'è nessuna. Non sto dicendo che è normale, sto dicendo allora? Semplicemente che lei dice: io faccio così, procuro anche del piacere, procuro anche del. Perché evidentemente non sa fare. A 80 anni è difficile lavorare, no? A 80 anni uno non deve fare la prostituta. A 80 anni fa la mignotta. Oh. Dovrebbe poter stare e mantenere il proprio figlio, specie se disabile e malato, in altro modo che non essere costretti a prostituirsi, secondo me. In un paese normale e civile, però poi per carità. chi era? Paolo ancora, vai Paolo. Pronto. Allora voglio dire a quel signore di prima, della prima parte della trasmissione, che per me va tutto bene, c'è solo una cosa che non si può fare in questa trasmissione, solo una cosa, voi la sapete qual è e non voglio aggiungere altro, solo una cosa non si può fare, il resto potete raccontare quello che volete con i termini che volete eccetera eccetera, siamo noi a decidere quando funziona o quando non funziona, quando si interrompe e quando non si interrompe, chiaro? Solo una cosa non si può fare e non rompetemi i coglioni con le vostre storie sul moralismo, sei moralista, moralista di che? Non c'entra nulla, una sola cosa non si può fare, non mi rompete il cazzo, Paolo. Bravo, una delle cose giuste che hai detto stasera, bravo. No, molto pacatamente, io sono uno dei tanti mentecati che vi sta a sentire tutti i giorni. Sì. C'è Parenzo di vicino. C'è, certo, qua. C'è, è sempre qua. Ciao Parenzo, sì. Venerdì scorso, ho sentito che eri tanto entusiasta, euforico, che a Londra c'è un sindaco musulmano. No, no, un sindaco pakistano, musulmano, pro-gay, certo, straordinario. Pensa, è il massimo della libidine che uno può aspirare. Straordinario, invece, grande metropoli. Esatto, e invece stavi disprezzando che a Padova abbiamo bitonci. Beh, certo. Guarda la differenza sindaco. Che c'è. Io ne vorrei uno, 10, 100, 1000. Scusa, ma perché non fai giudicare i padovani come amministra Bitonci invece di decidere tu da Roma, no, dal quartiere Pratico? Io vado spesso a Padova. E si ero anche il 25 aprile, non ho visto Parenzo, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Non c'è perché ero a Roma purtroppo. Ah, vedi, se ti offrivo allora? A Pedrocchi. Allora? Padova, che è il centro di tutto lo smistamento dei Vucumprà, adesso praticamente è stata rivoluzionata. Non vedi più uno per strada che vende. E ci voleva Bitonci, ci voleva. Non c'è nessuno che vende. Come c'erano i tuoi compagni di sinistra, Padova era Rolletta Maio. Adesso non esageriamo, dai. Sì, dai. Paolo, per fortuna le città spesso vanno avanti da sole, a prescindere dal sindaco. Ho capito, però ci vuole amministrazione. Va bene, Paolo. Tu, hai qualcos'altro da dire? No, ciao, grazie. Marco da Napoli, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi. Buonasera a tutte e due. Vai. Allora, parla per quanto riguarda Corona. Tu mi hai detto in radio poco fa, hai detto ma gli hanno censurato la frase, ma quelli gli hanno fatto sostanzialmente un piacere. Ma io non so se gli hanno fatto un piacere, io notavo, è una cosa televisiva di cui non fotto un cazzo a nessuno. La cosa fondamentale è questa: Corona ha fatto un programma che si chiama Uno contro tutti, la prima puntata del Costanzo Show, va benissimo, ognuno fa le sue scelte, chi se ne frega, ha fatto anche un buon ascolto. Dopodiché ognuno giudica quello che è diventato, il botulino, le cose, chi se ne frega anche di questo. Io mi fermo alle cose che ha detto Corona e il modo in cui si è difeso di fronte agli attacchi. Nel caso di Cecchi Paone in realtà ha detto delle cose abbastanza ininfluenti sull'esempio che ha dato Corona eccetera eccetera, ma a prescindere da questo, la risposta di sulla strumentalizzazione di Corona eccetera, la risposta che ha dato Corona a Cecchi Paone mi sembra, da quello che è stato ricostruito, anche abbastanza leggera. Ha detto: tu hai sfruttato la tua omosessualità per farti pubblicità. Quello se n'è andato, non capisco perché non abbiano fatto sentire questa frase, poi chi se ne frega. Ma guarda, io da questo punto di vista chiaramente non l'ho sentita la frase, tu avrei ricostruito il tutto e qua, però sinceramente, visto che lui ha risposto spesso in maniera aggressiva, nonostante non avesse dovuto essere... Vabbè, ma sta lì per rispondere uno contro tutti, che deve fare? Deve stare lì a pecorina, si deve mettere a pecorina, non ho capito. Non poteva fare pecorina, però a un certo punto uno dice vabbè, mo la zero un attimo perché questo qua, se no si mette nei guai perché... Vabbè, Marco, cosa devi dire di più? Non ho capito che cosa ci vuoi dire. No, non voglio dire nulla di particolare. Nulla di particolare, ciao. Giovanni da Cuneo, ciao Giovanni. Uno chiama, dice, non voglio dire niente di particolare. No, che cazzo chiami a fare? Giovanni da Cuneo, dai. Il fatto che le sta vicino, che non conosce, quando parla dei rom che sgozzano le capre per strada, non conosce l'articolo 8 della Costituzione italiana. Caro Parenzo, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Ora, scannare un animale in mezzo alla strada contrasta con l'ordinamento giuridico italiano, quindi l'Islam è fuori legge in Italia, capito? No, perché l'Islam sia fuori legge in Italia, questo lo scopriamo da lei oggi. Si legga il Corano, quando vabbè, questo secondo te, secondo te dovrebbe un maiale può sposare una bambina di 9 anni e incita gli altri a farlo. Però Giovanni, secondo te dovrebbe essere fuori legge? Questo è un altro discorso. L'Islam dovrebbe essere fuori legge. La cosa assurda, almeno da quello che si legge, è che un giudice dice che la religione è superiore alle leggi, da quello che sembra, sulla crudeltà degli animali, in questo caso naturalmente. Sulla crudeltà degli animali. Ma lascia perdere, stiamo parlando di un'altra cosa. In questo caso un giudice dice che la religione è superiore, le credenze religiose sono superiori, vengono prima di alcune leggi sulla crudeltà degli animali, e ve lo dice uno che non è che sia un animalista convinto, come sapete, ovviamente. Mi sembra una cosa folle se questa è la realtà. Fermi tutti. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Perché porti dei limiti? Saxo Bank. Fai trading ovunque, da qualsiasi dispositivo. La Zanzara. Ragazzi, sono molto preoccupato. Io fino a un po' di tempo fa i giga di internet li usavo per farmi le seghe su YouPorn. Adesso per scaricare il podcast La Zanzara. Siamo al top. Parenzo, c'è l'americano Bagatta che è dalla parte 2, che dice non voterebbe mai Trump, e dice che è un bancarottiere inaffidabile, eccetera, eccetera. Ottimo, Bagatta, si sa, persona per bene. Un bancarottiere. Come si fa a votare il bancarottiere Trump? Non so se un bancarottiere è un personaggio che va benissimo. Sì, avrà avuto qualche fallimento, sicuramente. In un film è straordinario. Sì, come Reagan, come dicevano di Reagan. No, Reagan è un'altra cosa. Guarda, andare a prendere le cose che diceva Reagan, saresti non ridito. Ha un profilo diverso Reagan rispetto a quello di Trump. Sì, che siano diversi, non c'è dubbio. Mi è piaciuto però l'attacco che ha fatto ai Clinton sulla storia del sesso, come lui viene chiamato sempre, no, misogino, viene descritto come uno contro le donne, eccetera eccetera, puttanate inaudite naturalmente per quello che dice. Sicuramente ci sarà stata qualche uscita infelice, andava spessissimo all'Howard Stern Show parlando delle sue prestazioni sessuali, parlando in maniera molto esplicita anche delle donne, no? E uno ha l'impressione che le giudichi delle bamboline da usare sessualmente, no, nella sua vita Trump. Ovviamente non è così, secondo me, non è così. Lui ha attaccato pesantemente la Clinton in questo modo, soprattutto Bill Clinton e Hillary Clinton. She's married to a man who was the worst abuser of women in the history of politics, who hurt many women, and Hillary was an enabler and she treated these women horribly. Just remember this. Allora, è l'uomo che uno degli uomini che ha trattato peggio le donne nella storia americana. Sì, si riferisce. E la Clinton ha distrutto, perché non è intervenuta mai, ha distrutto la vita di queste persone. Si riferisce naturalmente allo scandalo sessuale di Clinton, Levinsky. No? Allora, vi ripeto, la località vicino Lecco da raggiungere, dove c'è questa ottantenne che si prostituisce per mantenere il figlio cieco. Super 36 anni biondo. Andate lì con un assistente sociale, no, o portatele dei soldi. Sociali. Andate lì, datele dei soldi se volete, senza prestazione. E se proprio volete andare stasera a puttane, ce n'è una di 79 anni da aiutare. Sappiate che ha il figlio cieco. Miserabili, se usate la storia di questa povera signora. Certo, ha 79 anni, per carità, capisco che ha 79 anni. No, però... ma non per quello, perché è disperata, è chiaramente disperata, quindi. Dove andiamo? C'era ancora Giovanni o no? O è andato via? Dai, dimmi Giovanni, dimmi. Niente, è rimasto in sospeso il discorso dei due rom. Ho detto come la pensavo, punto e basta. Ok? E allora? Che cos'era la storia dei rom? Non ho capito. No, dello scopo della cerimonia rituale. Ah, il capretto, sì, ma dove... Ostia, dove aggiungere qualcosa o no? No, basta. E allora che cazzo sei rimasto a fare linea? Cruciani è uno marino perché non... No, Cruciani, Parenzo è uno marino perché non sa ste robe. Buon Vabbè. Lavoro a tutti. Ciao, Marco, Roma, vai. Oh, Cruciani. Dimmi. Buonasera. Fammi parlare un attimino con Parenzo perché mi devi far parlare con Parenzo. Eccomi tu, qua, chi è questo qui? Ecco, l'assistente sociale dovrebbe venire da te. Perché io ti spiego, noi parliamo di Corona. Corona dobbiamo parlare noi. Ma perché non mi parli un attimino del Marrazzo? Che ma fatto che c'entra adesso? Stai confondendo, c'entra. Stai confondendo le cose, non c'entra nulla. Ma dai, c'entra. Fatemi finire a parlare. Parli di Marrazzo. Che adesso. No, non c'entra niente, dai. Marco, però, che c'entra, che c'entra Marrazzo con Corona? Questo qua, perché questo parla di Corona, che Corona ha preso 9 anni di galera. No, veramente 13 ne ha presi. Per che cosa? 9 anni di galera, per che cosa? Per tanti. No, per diversi reati. Per diversi reati, per un cumulo di reati, guida senza patente, eccetera, eccetera. Bravo. Per un cumulo di reati. Allora? Marrazzo si è fatto dare in culo. Ma che c'entra? Marrazzi! Ma che c'entra? Ma stupidaggini. Ma che ma c'entra? Non dico stupidaggini. A parte che non ha commesso alcun reato, Marrazzo. Vabbè, niente, è stato non... pure ricattato. Nessuno. Ci stiamo a preoccupare di Corona. Vabbè, Marco, ciao. Stefano da Verbania, dai. Questo Stefano delira, da Verbania. Il paragone delira. Non esiste, il paragone. Io posso accettare tutto, ma il paragone tra la vicenda Marrazzo e quella Corona delira, sono due cose delira, completamente poveretto. Diverse. Stefano, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Telefonavo in merito alla vicenda di Alessandro di Volpiano. Sì. Il presunto tossico, sì. C'è qualcosa che non mi convince sinceramente, perché sì. Adesso l'ho sentito circa 2 ore fa e mi ha detto che giovedì pomeriggio, venerdì mattina si riunirà in assemblea il comune di Volpiano per parlare del suo caso. Oh, questo è un buon risultato. Vabbè, allora? Ecco, quello che non mi convince è che il lunedì dopo la trasmissione, 2-3 giorni dopo, io ho chiamato in comune a Volpiano per sapere un po' questa vicenda e mi ha risposto un assistente sociale dicendo che il sindaco pensa che sia un caso strumentalizzato proprio per il fatto che ci sono le elezioni adesso comunali. Non lo so, guarda, sinceramente non è di grande interesse se il caso è strumentalizzato o no. No, no, beh, certo, ma io l'unica, quello che io dico, quello che io penso, che è assurdo dover telefonare, andare in una trasmissione radiofonica seguita come la vostra, io vi seguo da anni. Allora? Per cercare di far valere un proprio diritto. Vabbè, ma non lo so se questo ha dei... Non so, io non so se... Sì, scusami. Io non so se questo qua abbia dei diritti e su che cosa abbia dei diritti. Non, francamente non lo so. So solo che ha fatto una richiesta di aiuto anche disperata per il suo stato, per la sua situazione. Dice di non essere più tossico. Altri dicono il contrario. Questo può essere rilevante come rilevante, non lo so. Punto e basta, cioè, non so come il comune possa intervenire o come non possa intervenire, non mi sembra un caso strumentalizzato in modo politico, è semplicemente il grido. No, loro pensavano e vabbè, poi vedremo come andrà a finire. Ciao. Vabbè, ciao. Ragazzi, un signore che è intervenuto l'altro giorno sulla vicenda dei polli, ti ricordi? Quel capo scout dei polli uccisi dai bambini. Polli massacrati con i bambini. Certo, pare che sia tutto vero. Che sia tutto vero. Tipi da Zanzara, vai. Tipi da Zanzara. Giovanni, vai. Pronto, ciao Cruciani. Vai, Giovanni. Ecco. Ascolta, volevo dirti una cosa. Ha fatto uccidere 10 polli a dei bambini. C'erano dei polli in una fattoria e li ho presi. Li ho messi nella mia macchina e li ho portati in montagna. E li ho portati in un campo. Ma li hai comprati questi polli? Certo, li ho comprati. Hai comprato dei polli in una fattoria, li hai portati in montagna e dunque? E poi c'erano dei bambini. Sì. Dei bambini che io tenevo in qualità di animatore, diciamo, animatore capo scout di che cosa? C'era un corso, una scuola, che cos'era? Era un campo estivo. Bene, dunque? E a questo campo abbiamo fatto uscire i polli dai cartoni. Sì. E abbiamo detto: ragazzi, stasera si mangia pollo. I bambini... così li abbiamo messo davanti ai ragazzi, davanti a questi bambini, la realtà delle cose. Cioè, se tu vuoi un petto di pollo sul tuo piatto, c'è poco da fare, cioè il pollo è lì, se lo vuoi mangiare lo devi uccidere. E questi che hanno fatto? Ci sono stati pianistei di tanti bambini perché non volevano, però alla fine sono quelli che dopo, se c'è quello da mangiare, lo mangiano, capito? Quanti anni avevano questi bambini, scusa? Dai 12 ai 14, 15 anni. Come hai fatto a far uccidere i polli dai bambini? Tirare il collo era troppo complicato, perché ci hanno detto che rischia poi che l'animale non muoia del tutto, non muoia subito, insomma, e quindi rischiava di rimanere in mano al bambino, figurati il bambino cosa succedeva. E allora abbiamo optato per un metodo più semplice: lo metti per terra il pollo e ci metti un palo sul collo, praticamente, che gli passa sopra il collo. Lo blocchi da un lato il palo e dall'altra parte il bambino, boom, dà un colpo con la scarpa e il pollo muore. Allora, io credo una cosa, Giovanni, siccome noi non siamo nati ieri, cioè non siamo, facciamo questa trasmissione da un po' di anni, siamo abituati a capire le telefonate. Sì, quelle... Io credo che Giovanni sia un idiota, ma sia un idiota per due motivi. Primo, perché si è inventato questa storia per un po' di narcisismo, però passi, va bene, d'accordo, ci sta. Ma è un idiota anche e soprattutto perché mette insieme il, come dire, la purezza dei bambini con la crudeltà del gesto che ha detto. Sì, ma lascia perdere. Quindi è un idiota. I genitori erano d'accordo con questa cosa, cioè noi quando abbiamo proposto la cosa, ovviamente l'abbiamo proposta prima, abbiamo detto ai genitori, era una sorpresa per i bambini ma per i genitori no. Noi abbiamo fatto una riunione prima del campo e abbiamo detto, noi proponiamo questa attività forte. Giovanni, allora adesso facciamo una cosa, io non ci credo a questa cosa, penso che tu sei un buffone che chiami perché vuoi fare colpo, vuoi pensare di... Tipi da Zanzara. Allora, in realtà devo quasi chiedere scusa all'ascoltatore, gli abbiamo dato dell'idiota, eccetera, eccetera. Alcuni giornali vicentini hanno fatto dei controlli ed effettivamente è tutto vero. Cioè, esiste questo capo scout, la storia è assolutamente vera, pare che sia una usanza, tradizione di diversi campi scout in Italia. Animalisti, muovetevi voi. Cruciani, lavati, zozzone. La Zanzara. Allora, mi dicono strada statale 36, uscita Nibionno Gaggio. Mi comunicano tutto tramite telefono, specificano il luogo dove sarebbe questa prostituta ottantenne. Allora, Corona ha parlato anche di sesso, In carcere non ho avuto stimoli sessuali per 3 anni. Per 3 anni. Il sesso in carcere non lo senti tanto. Se mi avessero detto che sarei stato 3 anni senza far l'amore per uno malato come me. Il sesso. Come avrei potuto riuscire a stare 3 anni senza andare a una donna? Eppure sono talmente le problematiche, talmente i problemi, talmente i pensieri, talmente le repressioni, che non ho avuto nessuno stimolo sessuale. Allora, uno dei motivi per cui Corona è uscito dalla carcere poi è andato dalla comunità di Don Marzi, Parenzo, è che a un certo punto ha detto, con grande sorpresa devo dire, di chi lo conosce, ha detto di essere dipendente dalla cocaina, cioè sostanzialmente di essere stato cocainomane per un periodo. E quindi che si deve curare fuori. E quindi si doveva curare fuori. È incompatibile con il regime del carcere. Cioè. Io devo dirti la verità, poi non me ne frega niente, non sono nemmeno... all'epoca ho fatto delle discussioni sulla campagna che c'era a favore di Corona, non per il fatto che sia stato rilasciato, quella è la legge che decide se deve essere rilasciato o no. Ho fatto delle polemiche sulla... Per me è giusto come per Dorina. Ma io non lo so se resto, è giusto o no. Uguale, ci si potrebbe discutere a lungo, cioè, di questa per cosa. Alcune pene come quella... Io ho fatto una polemica molto forte sulla campagna che c'era da parte di alcuni che dicevano vabbè, ha fatto 4 cazzate, capito? Figuriamoci, non nemmeno gli assassini restano in carcere tutto questo tempo. No, infatti è incredibile la solidarietà che Corona ha avuto e che Dorina non ha mai avuto. Allora, come se il diritto fosse una cosa soggettiva proprio. No? Ma al di là di questo, la storia della cocaina a me pare incredibile. È con noi al telefono Lele Mora, buonasera, ciao Lele. Buonasera, ciao agli ascoltatori di Radio 24 e a quei due malandrini che ci sono lì che chiacchierano. Allora Lele, tu hai conosciuto Corona naturalmente a lungo, per più di 10 anni diciamo. L'hai visto ieri intanto. 11 anni, siete stati insieme, quando dici siamo stati insieme 11 anni, che cazzo vuol dire? Vi siete frequentati? Tutti i giorni, una grande amicizia, una grande... Un amore per te, come hai già raccontato più volte. Un amore, sì, un amore vero, un amore vero. Un amore non corrisposto però, o sì? Ma a momenti sì, a momenti no, dipende dai momenti. Cioè per certi periodi eravate fidanzati addirittura? Ma lui quando arrivava a casa diceva se c'era seduto qualcuno al suo posto, spostati da lì che io devo stare seduto vicino al mio fidanzato. Beh, però come hai detto tu più volte ti ha sfruttato un sacco, dai, ti ha sfruttato. Più che sfruttato, mi sono lasciato usare. Ti sei lasciato usare, sì, ti sei lasciato usare in tutti perché, i modi. Perché quando uno, invece di avere le bistecche sugli occhi, ha le fiorentine, certe cose non le vede. Sì. Il filtro della carne è talmente in forte, tutti i sensi, in tutti i sensi, talmente debole che magari apprezzi qualsiasi cosa. Ma ieri l'hai visto o no? Come ieri non l'ho visto, certo. No, non l'hai visto? Ma, no, ma cosa lo guardo a fare? Era già, io sapevo già tutto perché una mia amica che si chiama Alda De Usanio era presente, mi aveva raccontato tutto come era andato. Senti, ma sta storia della cocaina, scusami un attimo, sta storia della cocaina è vera ma o non è vera? Ma io che non ha visto ieri sera Corona, cioè non è possibile, anche per solo per curiosità. Chi, Lele? Ma no, non, ma lei non gliene frega niente. Ma che me frega, tesoro, io dormo. Tempo uno... da perdere a guardare Costanzo, se farai i cazzi suoi, dai. Ma Costanzo lo guarderei se facessi il Costanzo bello come mi piaceva una vabbè, volta. Ma gli anni passano per tutti, Lo grande professionista, niente a dire. Vabbè, lei questa storia della cocaina di Corona, io è vero? credo, e vivendo vicino a una persona per tanti anni, non l'ho mai visto più fare, anzi, lui la droga la ripudiava, non era uno. Lui, la sua droga sono i soldi, le donne, il sesso. Poi magari se lo faceva prendeva qualche pillolina più di qualcuna perché cioè Viagra tanto. Dici tu Viagra sì. Ma non so se era Viagra Cialis o qualcosa. Si riempiva di Viagra, ma senza quello riusciva a scopare oppure no? Ma secondo me no, tesoro mio. Che ne so io, amico mio. Io adesso sto provando il Viagra naturale, figurati un po'. Amore, tu vieni con me, vedrai che differenza. Ah, in che senso, scusami? Su tutti i sensi. Ma tu che usi, scusa? Io non uso niente, c'è il pappagallo morto da 5-6 anni ormai, è lì con la testa in giù, tesoro. Niente, nemmeno col Viagra. Che ma nemmeno l'ho mai preso il Viagra nella mia vita. Cioè, ormai sei impotente. No, al mattino sembra Barzotto. Ha un po' Barzottino. E sessualmente, tu, quanti anni hai, Lele? Scusami, 61 compiuti. Cioè, tu mi stai dicendo che a 61 anni non ti funziona più, zero, finito. Zero, ma io prendo delle pastiglie per la mia depressione. Che ti fanno, sì, questo l'hai già raccontato, sì, che ti inibiscono il tutto. Mi inibiscono il sesso. Ma non ti manca a te un po'? A 61 anni, io conosco gente che a 60 anni fa l'ira di Dio. Ma me frega a me il sesso. Io ho talmente tante altre cose in testa che il sesso proprio non ti interessa neanche. E all'epoca, quando frequentavi Corona, il sesso lo facevi? Cioè, ma certo che lo facevo. Cioè ti diventava duro con lui o no? Di più, come Bossi. Come Bossi. Dice la duro. No, Bossi. Lo slogan di Bossi. Senti, io non ho capito una cosa. Dunque, secondo te non si è mai drogato alla fine? La cocaina non l'ha mai usata? Ma secondo me assolutamente no. Dunque, quello che ha detto è una boiata, poi, secondo te? Guarda, dopo sai, c'è stato un periodo che io ho preferito mollare tutto. Non so se del dispiacere di non frequentarmi più si è dato la cocaina. Però lo escludi. Lo escludo totalmente. E perché? Dunque si sarebbe inventato questa cosa della cocaina, secondo te? Ma no, non lo so, sai, poi quando tu una persona non la frequenti, che cosa ti passa? Lui è un genio. Ma che bello. Peccato che sia un genio del male, capito? È una persona con tante bellissime idee, invece di usarle però in maniera intelligente, le usate in maniera sbagliata. Però, ma la genialità da che cosa si vede, scusa, secondo te? Dalla follia. Cioè la follia è anche genio. La follia è genio. La follia è genio. Tutti i grandi erano folli. Sì, dei tratti di genialità ce li ha sicuramente. Io ho lavorato con tanti. Secondo me è solo bello, lo sai che senza la bellezza non sarebbe nulla. Ma però, tesoro, non era neanche più bello perché ho visto qualche fotografia sti giorni che passava adesso, in televisione. Adesso. Mi sembra un po', diciamo, Silvestre Stallone, sì, più giovane ma tutto rifatto. O questo gli zigomi, dici questo, tu gli zigomi. Ma gli zigomi mi servono gli zigomi di non so chi, della Isabella Biagini. Addirittura. Vabbè, ma dai, quello chi se ne frega, quello è un problema suo. Sì, quello è un problema suo, si vede che Urtis lo vuole uguale a lui. È sempre sotto i ferri di Urtis, Ma no, sono ferri. Giacomo Urtis, il mitico Giacomo Urtis. Che poi non è neanche chirurgo, lo sai, è dermatologo. E vabbè, ognuno sai, si crea il mercato, che vuole. Vabbè, ciao Lele, ti abbraccio, ciao. Ciao, ricordati una cosa, però, Sei sempre renziano? Renziano di più. Turbo renziano. No, ma l'avevo cambiato l'ultima volta, ero diventato quello morettino carino del Movimento 5 Stelle, sai quello che sicuramente che è Di Battista, Di Maio. Che è Di Maio. Di Battista, sì, che è Di Maio, Di Battista. Ciao, presto, ciao Lele, ciao. Comunque ciao. Volevo dirti una che cosa, mi volevi dire? Lasci dire l'ultima. Dimmi. Col dito l'orgasmo è garantito. Ricorda che vuol dire col dito l'orgasmo è garantito? Lo spiegami. Lo dirò la prossima no, volta. Dimmi che vuol dire col dito col dito. Che è l'orgasmo prostatico, dici? L'orgasmo prostatico. Col dito l'orgasmo è garantito. Ciao. Viva Goldrake che ammazza i vegani. La Zanzara. Poi che cazzo ce ne frega di Efeballe che fa un bocchino, leva 10 euro, ci va quello di Bologna, 500 euro 3 ore, lecca i piedi, la piglia in culo, la piglia davanti, la piglia nelle orecchie. Ma che cazzo ce ne frega di Efeballe? Parliamo di attualità, di cose serie, di pagliacciate, di merda, di politica. Dai Giuseppe, lasciale perdere Feballe che lecca i piedi. Dai, facci parlare più a noi. Sei stato dai 8.20 a 8.45 a far parlare Feballe. Ma dai su, invita qualche figa. Voglio insieme a Peppe Cruciani Valentina Nappi a condurre la Zanzara. Ma sai quando odio che facciamo? Ma sai quanti ne chiamano una sera per parlare con Valentina Nappi? No, che c'è Parenzo, sì, fa tutto politicamente corretto. Ma falla finita, invita i fighe, dai. Io a sera voglio rilassarmi, voglio sentire la Zanzara e voglio che si parla di figa! Figa! Viva la figa! Questo è un maiale, un maiale. Totalmente pazzo. Scombiato la radio della Confedusta per YouPorn. Questo qui, però, mi ha fatto ridere perché ha una voce incredibile. Io l'ho soprannominato il camionista sudista e anche un po' leghista. Ma non sappiamo se è camionista. Sì, fa che sento sempre un rumore di vabbè, camion. Sopra. No, ma l'ha scritto pure qualche volta. L'ha scritto, dai. Ah, perché è un affezionato della segreteria. Ragazzi, vogliamo dare questo numero di telefono? Sì, vogliamo mandare questo numero di telefono? Vai. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Manuel da Bergamo, vai. Pronto, ciao. Dimmi. Allora, ieri ho guardato il programma di Parenzo sulla 7. Sì. E, allora, volevo sapere se la signora del PD che c'era ma qualche problema è normale o in che senso, scusa, no, la signora Picerno è normalissima. Perché? E magari ha le idee che lei non condivide, però è normalissima. No, in che senso non è normale secondo te? Perché c'erano Parenzo il costituzionalista e l'altro in diretta collegato, vabbè, allora adesso non ci pare che argomentavano varie storie sulla riforma del Senato eccetera, sulla corruzione. Sì, e dunque? E mentre loro parlavano lei faceva le facce, rideva. E dopo loro che argomentavano, vabbè, adesso non, però io il riassunto della trasmissione in questo caso non è utile. Manuel, che cosa vuoi dire? Non ho capito cosa vuoi dire. Non lo sai nemmeno tu. Hai chiamato e non sai cosa dire. No, lo so cosa dire. E allora dillo. Che la signora qui faceva tanto la santerellina quando, ma chi? Invece... La signora chi? La signora Picerno. La signora Picerno faceva la santerellina invece? Che poi santerellina, cosa vuol dire invece... fare la santerellina poi? Cosa vuol dire? Esprimeva le sue idee, rideva, scherzava, pigliava per il culo, esatto. Non lo so cosa faceva. Pigliava per il culo Parenzo e tutti gli altri. Ma non mi pare proprio. Ma non mi è sembrato, ma non importa. Argomentavano, sì. Non si è capito. Argomentavano, lei rideva, poi quando doveva argomentare lei... Vabbè. Faceva dei giri di parole. Per arrivederci, dire... Manuel. Enrico da Roma, dai, Enrico. Gente chiama, non sa che cazzo dire. Enrico. Buonasera. Dimmi. Volevo, adesso mentre sentivo, mi è venuto in mente che avrei voluto anche chiamarti per la settimana scorsa. Vabbè, è la uguale. storia del riso scotto. Il riso scotto, come no? Siamo stati per allora, una settimana a parlare di riso scotto. Per la... Volevo dirvi, anche Parenzo che ci è andato vicino, ma riso, chi cazzo l'ha pagato? Il riso chi l'ha pagato? Beh, la comunità, la collettività, noi. La cooperativa che si occupa di gestire queste cose. Beh, no, i soldi chi gliel'ha dati alla cooperativa? Noi. I soldi sono soldi destinati agli aiuti sociali. E da dove vengono? Sono soldi dello Stato. Dunque, da dove vengono? Dalle nostre tasse anche, ovviamente. Fanno parte del bilancio dello Stato. Fanno parte del bilancio dello Stato, cioè le tasse nostre. Chi pago io la sanità per questo qui? Come si chiama questo? Questo che allora, chiama? Come si chiama? Un attimo, fermati. Si chiama Enrico. Io pago la sanità per Enrico. Ma dice che ha fatto Enrico nella vita di encomiabile? Forse nulla, però gli pago la sanità. Fermati prima di sentenziare. Visto che paghiamo noi quel cazzo di riso, ma manco cotto riusciamo a farglielo. Sì, anche questo non è sbagliato. Anche questa è una riflessione non sbagliata. Ma questo però è il problema. Non è tanto il fatto che quelli si sono lamentati o non lamentati, ma può darsi che manco il riso riusciamo a farglielo buono. Ecco, questo è giusto. Vabbè, ma che c'è? Ma non è vero, lo facciamo buonissimo il riso, perché lo mangiano tutti quelli che non sono extracomunitari in quella mensa. In un posto dove l'hanno mangiato tutti. Le mense pubbliche, io qua c'ho la mensa, fanno un riso buonissimo e lo fanno tutti. Senti, Enrico, non si è lamentato nessuno in quella mensa. Le persone che vanno a mangiare lì, italiani, non italiani, non si è lamentato nessuno. Ne parliamo che lo facessero come se. Serve, no? E infatti lo fanno benissimo. E infatti no, lo fanno a cazzo, perché se c'è qualcuno che ne sai tu. Ma non è vero, no? le proteste, le lamentele spesso sono strumentali, non c'entra assolutamente nulla. Quelli sono allora, dei deficienti che si lamentano per il nulla. Il fatto che fossero strumentali. No, ma non è strumentali. Che c'è qualcuno che si lamenta, ma non mi interessa. Ma c'era tanto a farlo normale, un riso. No, perché è normale. No, allora, è diversa la cosa, è normale. Ma tutti lo dicono. Noi l'unica cosa abbiamo che parlato che c'è qualcuno che sta la settimana scorsa, abbiamo parlato, a parte che era un riso dentro un minestrone, abbiamo parlato con un signore che è quello che gestisce la mensa, il quale ha detto: guardate che il riso qua lo mangiano tutti, lo mangio anch'io, è un riso normale, tranquillo, non c'è nulla di cui lamentarsi. Benissimo, punto e basta. Ma se loro si lamentano e io ti parlo. Ma che vuol dire? Non è che ma non è che qualsiasi come lamentela farlo. Vabbè, ma tu insisti su questa cosa. Io ti dico, non è che qualsiasi lamentela va bene. Cioè se uno si lamenta dice va bene per forza, no, cioè non può darsi pure che le tue lamentele siano delle stronzate. Questi qua si sentono. Allora gli dici che sono delle stronzate a loro perché il riso glielo contesti, ma il concetto che è sbagliato. Vabbè, d'accordo, è che noi pagando un cavolo di riso dovremmo averlo almeno normale. E continua. Ciao Enrico. Bruno da vicino. Ciao. E con che di che volevi ciao, parlare? Caro, ciao. Di che volevi parlare? Volevo Enrico. Parlare del fatto che siccome tu ti lamenti anche dello sgozzamento del capretto, sempre parlare di cibo, di religione. No, io non mi sono affatto lamentato dello sgozzamento del capretto. Dico, scandalizzato. Dico ho detto semplicemente che il giudice che ha deciso che questi qua non vanno condannati in nome della religione, perché la religione è superiore alle leggi che regolano. Sono stati condannati in sede civile, mi risulta, non in sede penale. E dunque, e poi successivamente assolti, e poi successivamente. Sì, ma in sede civile sono stati condannati. Ma che cosa vuol? Ma non me ne frega niente adesso in sede civile o penale. Ma non importa a nessuno questa cosa. È un reato. Non importa a nessuno, stiamo parlando. Importa a tutti il principio. Vabbè, cioè ecco. Enrico, a te importa se era civile o penale? Beh, sapere com'è andata, no, sì. Non me ne frega un cazzo. Di cosa parliamo? Ma stiamo se parliamo parlando del caso, uno vorrà sapere che è successo, no? Senti, Davide, nel merito. Allora, un giudice li ha assolti, non me ne frega niente se in campo civile o penale. Li ha assolti per penale, vabbè, per la parte penale. Bruno, Enrico, mi dispiace. Bruno da Vicenza. Scusami, Enrico, perdonami oggi. Bruno da Vicenza. Però se no non come facciamo a discutere di questa cosa? Vabbè, comunque sono stati assolti. Benissimo. Bruno da Vicenza, sono stati assolti da un giudice, non so se in sede penale o civile, in questo momento non importa, sono stati assolti da un giudice perché la religione viene prima di altre cose, punto secondo e basta. La Costituzione, ha detto il giudice che ha scritto la sentenza. Ma secondo me è una cazzata, Bruno da Vicenza, vai. Dai. Sì, Cruciani, buonasera, sono Bruno da Vicenza. Quello che vi chiamo ogni tanto per insultarvi. No, non ci interessa, perché parla. La mutua mi fa le ricette. E non lo so, Bruno, non posso ricordarmi. Guarda, te ne ricordi benissimo, c'era anche... Vabbè, d'accordo, ma di quello che devi dire, dai, forza, amico mio, dai. Sì, allora, questa sera salvo Cruciani, insulto solo te. Insulta solo me, dai. Sei proprio un cinico di merda. Sono un cinico di merda. Cioè, ma come fai a trattare le notizie? Gli insulti a comando, non vanno bene. In questo modo. No, non sono insulti a comando, Cruciani. Parli di una signora ottantenne che si prostituisce, sì, perché ha la canna del gas come se fosse una cosa normale. Beh, non ho detto che è una cosa normale, ha detto ha deciso di prostituirsi dall'intervista che gli ha fatto un brevissimo collega. Ma come ha deciso cosa? No, ho sentito. Ma diceva Parenzo, intervenire il comune, certo, è disperata quella era disperata. Secondo Parenzo, noi dovremmo avere tanti soldi e intervenire sempre, in ogni caso, quando c'è un caso così bisogna sempre intervenire. Beh sì, direi di sì, lo Stato a questo serve anche. Ha messo lì una signora di 80 anni che si prostituisce, allora? Perché il figlio cieco non riesce a sbarcare lunario. Dunque? E te gli mandi anche i clienti. Beh certo che le mando i clienti, assolutamente, ha bisogno di clienti. Ma mandato l'assistenza. Mandagli una parte del tuo stipendio, merda che non sei altro. Ma Bruno, scusa, se questa qua si vuole strada, ma se hai la possibilità e tu ce l'hai, toglierla dalla strada. No, io non tolgo nessuno dalla strada. Io non devo togliere nessuno dalla strada. Se questa qua si vuole prostituire a 80 anni, perché ma non è che vuole. Sì, ha deciso di ha fatto un'intervista peraltro per dire per denunciare la sua condizione. Bruno, sarò anche un cinico di merda. Io ho letto questa cosa qui e mi sembra abbastanza chiara. Cioè, non siamo di fronte a una persona che dice: Oddio, sono sfruttato, ho fatto l'unica cosa che mi. Una persona che ha detto delle cose molto, molto chiare. Mio marito è mancato, mentre mio figlio, a causa del diabete, è praticamente cieco. Prima provvedeva lui a me, adesso è il contrario. Tra affitto, bollette e medicinali, i soldi non sono mai sufficienti. Allora eccomi qui. Prova vergogna? No, perché dovrei? Non rubo mica e non faccio del male a nessuno, anzi, cioè dice di fare sostanzialmente del bene. A qualcuno faccio pena, dice lei, a qualcuno faccio pena, eccetera, eccetera. Ragazzi, la situazione è questa, ma non lo so, non ci ho parlato ancora. È una denuncia che lei fa. Voi date dei giudizi prima di parlare con le persone. In base a quello che hai letto, mi pare evidente che questa ha scelto di fare un'intervista. Sembra quasi come dire un appello, dire: ok, sono qui in questa condizione, mi tocca fare la prostituta. A qualcuno faccio pena, fare dell'altro. Mi chiede perché mi venda la mia età e allora mi allunga qualcosa di più. Non guadagno tanto, ma almeno mio figlio e io riusciamo a campare. A me importa solo. È chiaro che vorrebbe questo. Fare qualcos'altro, mi pare evidente. Bruno, dove sarebbe? Non ho capito che cosa dovrei fare. Perché se una persona si vuole prostituire, io dovrei darle una parte del mio stipendio. Ma non vuole. È che si vuole prostituire. Ha deciso, è costretta nella condizione. Ognuno di noi può scegliere, la scelta c'è sempre. Non tutti possono scegliere. Ma quale scelta? Beh, a 80 anni, amico mio, non so che mercato. Non so che mercato. A 80 anni cosa fai? Dove vai? Ah, per forza la mignotta devi fare. Per forza la mignotta devi fare a 80 anni. Per forza, anzi, scusami Bruno, io credo che la mignotta a 80 anni non abbia nemmeno questo mercato, Scusami se te lo dico. Perdonami. Infatti è un estremo grido d'aiuto. Ma quale? Voi mi sembra evidente questo, sì. Vabbè. Non lo so, vediamo. Come la vedi, Parenzo? Ma mi sembra straevidente proprio, ma da quello che dice lei stessa mi sembra evidente, cioè è talmente ovvio. Allora, infatti, stasera te non ti insulto, a Cruciani gli dico che è una merda, un cinico di merda. Bene, ottimo. Perché trova sempre le magagne degli altri, no? Le disperazioni per fare odio. Bravo, continua così. Ciao Bruno, Michela Livorno, vai. Ciao. Ciao Michela, come stai? Bene, grazie. Ascolto la Zanzara da anni, sì. Da tantissimi anni. Sì. E ho anche lasciato che l'ascoltassero i miei figli, perché era interessante. Non ho capito. Sì. Ho detto che ho lasciato che l'ascoltassero anche i miei figli. Sì. Adolescenti, perché era interessante, anzi ci siamo confrontati spesso. Ora mi chiedo come mai... questa trasmissione è diventata così volgare ogni tanto perché siccome la volgarità fa parte dell'animo umano e fa parte della vita dell'uomo, stiamo parlando io e te è un momento volgare? Ti sei risposta da sola ma un pochino più calmo, l'argomento lascia perdere, calmo e rilassato con la volgarità non c'entra nulla, calmo e rilassato con la volgarità non c'entra niente, con le persone un posto più calmo e lasciale parlare. Ma questo che c'entra con la volgarità? Ma hai già cambiato argomento. Allora, dici delle cose e ti rispondo, scusami. Io mi ostino ad ascoltarla tutti i giorni ancora. Benissimo, ottimo. È sempre volgare. Va bene, questo è il tuo giudizio. La storia non di questa. Non è il mio giudizio, anche le persone che lasciano messaggi in segreteria, lasci passare quei messaggi volgarissimi. Perché, le segreterie sono fatte apposta per mostrare il peggio delle persone. Io non credo che tu sia così. Ma cosa c'entra? Non è che sei forse diverso da una prostituta, pur di fare ascolti. Ma non c'entra niente. Al popolo. Quel che piace al popolo. No, ma io però non capisco qual è l'oggetto della cosa. Dunque, allora, la storia detesto, ti ho già spiegato. La volgarità che detesto. Ogni tanto c'è qualche momento che tu defini. Non è sempre. Senti, Michela, la volgarità sono altre cose nella vita. La volgarità sono altre cose. La volgarità sono altre cose per me nella vita, capito? Non è la descrizione. Non è la descrizione di un rapporto sessuale. La volgarità sono gli sprechi pubblici, i politici che rubano, sono altre cose le volgarità. La volgarità non è un cazzo. L'intervento di, come si chiama, Lele Mora prima è stato veramente elegante, secondo te? Ma l'eleganza, ma questa trasmissione non è elegante. Ma questa trasmissione non è elegante. Questa trasmissione non è elegante. Una volta era interessante. Ma non lo so, se non la trovi interessante. Scusa, Michela, se non la trovi interessante, allora per quale cazzo di motivo alle 20:10 ti metti al telefono? Sei assurdo, sei tremendo. Ma non sono tremendo, sono realista. Sì. Cioè, sono realista. Tu mi dici una volta era interessante, poi sta 20 minuti al telefono a aspettare di intervenire. Ma di che stiamo parlando? Ragazzi, ma di che parliamo? Ho ancora speranza nell'essere ma umano, perché trovi alla fine sei attratta da questa cosa? Sì, sei attratta. Allora ti dico solo una cosa: hai mai provato una cosa, una pratica sessuale? Te lo posso chiedere? Che cosa? Hai mai provato una pratica sessuale che si chiama pegging? Lo sai che cos'è? Senti, di questi argomenti, siccome l'hai provato o no? L'hai provato o no? L'hai provato o no? Non parlo certo in radio. L'hai provato o no? Prendete il mio avvocato. Parliamo di tutto in privato. Hai mai indossato una cintura fallica? Hai provato a sodomizzare un uomo? Oh mio Dio. L'hai provato? Perché trovo più interessanti altre cose. Oh, mi hai risposto, non l'hai mai provata. Era un test. Siccome pare una pratica diffusa, e ti ho chiesto a una donna, Michela da Livorno. Perché stiamo cadendo nella volgarità. Ah, non è la volgarità, è la vita! È la vita, non è la volgarità, è la vita! Non è questo. È una parte della vita. Possiamo parlare di politica, possiamo parlare di pegging. Se hai un potere, se hai la possibilità in radio e l'intelligenza anche di poter parlare di cose molto più importanti e di aiutare. Aiutare a capire, ma questo non lo dica perché. Che cosa? Ma aiutare a capire, non lo dica perché non vuole aiutare, no. Quella persona, no, aiutare una persona a capire, è stata aiutata a capire. Per fortuna, sì. Ma ci sono tante persone aiutate. Perché siccome non siamo tutti bravi a capire le cose o a elaborarle, se hai la possibilità di farlo, perché non usi la tua trasmissione meglio, in maniera più intelligente? Cara Michela, io ti voglio bene perché mi ascolti da tanto tempo e comunque mi dicono che bisogna volere bene a tutti quelli che chiamano. Io alla fine voglio bene a tutti quelli che chiamano. Detto questo, cara Michela, quando io ti chiedo delle cose che riguardano il sesso, che riguardano le persone, che riguardano la vita intima, quando ogni tanto vengono pronunciate delle parole che possono sembrare volgari, fanno parte purtroppo della nostra natura, cioè fanno parte di noi. Capisco che possono essere considerate fuori da un dibattito pubblico, ma questa trasmissione cresce, nasce, si sviluppa proprio per questo, cioè per andare oltre quello che è un normale dibattito pubblico su alcune cose e per parlare in alcuni casi in maniera esplicita. Se non parlassimo in maniera esplicita, purtroppo saremmo morti, sarebbe un'altra cosa, magari può succedere, ma non è questo il punto. La volgarità, ti ripeto, è un'altra cosa. La volgarità è altro, è nascondere le cose. La volgarità è raccontare delle minchiate, essere disonesti intellettualmente. Questa è la vera volgarità, non una cintura fallica, una sodomizzazione, un cazzo, un vaffanculo ogni tanto. Poi è chiaro che ci sono dei momenti in cui magari per mezz'ora ascolti questo e ti impressioni, però ti assicuro che è così e ti abbraccio. Dammi un abbraccio, ti prego, Michela, abbracciami fortissimo. Oddio, forte, fortissimo. Ciao, ciao, ciao. Oh ragazzi, sono al casello di Carisio e sto ridendo. La Zanzara. No. No, Giuse, scusami, però questa volta devo dare ragione a Davide. I cani non si toccano, non si mangiano. Io ho un cane e lo tratto meglio dei parenti. Il cane è l'amico dell'uomo. Il cane non ti tradisce, l'uomo sì. I cani non si toccano. Giuseppe, se dici un'altra volta che i cani d'allevamento si devono mangiare, ti mando a fare in culo. Nonostante tanti anni che ti ascolto, ti mando a fare in culo. Hai detto una minchiata. Penditi, penditi. Quando sento il traffico divento pazzo. La zanzara. Nonostante con meticolosa perizia io lo sgrullassi, come richiede la prassi, e benché nel non bagnarmi così io la massima attenzione, di piscio un'enorme goccia mi bagna il pantalone. Caro Parenzo, succede a Oreggia, o Loreggia, anzi a Loreggia, che un tizio che si chiama Gabriele De Pieri, un indipendentista veneto, sì, ha mostrato la carta d'identità veneta, da lui prodotta naturalmente, no, che non esiste, e non valida, che non valido, esiste, beh, certo. È stato fermato dai carabinieri, non aveva nulla in realtà, non aveva la patente italiana, eccetera eccetera, ha tentato prima di fuggire dal controllo e poi ha travolto un militare in retromarcia. Io una telefonatina la farei, che chiamalo, dici tu? Chiamalo. Lo chiamiamo? Subito. Signor De Pieri, si chiama Gabriele De Pieri. Ma un matto, un pazzo. Pare che sia un tizio che dice di essere presidente dell'autoproclamato Stato della Repubblica Veneta. Non... Cosa? Ma che cazzo ne so? De Pieri? Con chi parlo? Buonasera. Salve. Buonasera, mi chiamo Cruciani, salve. Salve. Ma che è successo l'altro giorno, che sei stato una notte in galera, ti hanno fermato? Che è successo? Allora, io ero per la mia strada, tranquillamente, quando vedo due persone vestite di nero con le bande rosse sui pantaloni, io sì, non ho niente contro i carabinieri, premetto, anzi un bellissimo rapporto, premetto sempre, e premetto anche che in caserma lì attiene, sì, se sono già iscritti tra i carabinieri. Cioè in caserma attiene, scusi? I carabinieri hanno dato la loro solidarietà. A chi? Verso di me, e hanno detto che si iscrivono e vogliono la carta d'identità veneta. Vabbè, mettiamo che sia così. Comunque, lei è stato fermato dai carabinieri, dunque? Allora, io non sono stato fermato, mi è andato, ho visto prima, io stavo percorrendo a 50 all'ora sì, questa strada, sì, c'era la colonna di macchine. A un certo punto, tiro fuori una paletta così, quando era oltrepassata la mia macchina. Quindi io penso con la coda dell'occhio che fermavano quello dietro. E invece questi qua, quando mi sono affiancati, che facevano dei segnali strani. Sì, segnali strani. Segnali che lei ci doveva fermare, forse? No, segnali amichevoli, no? Uno ti saluta. Ah, ok. Io ho salutato. Capisci? E poi? Poi praticamente si sono parati davanti, tagliandomi la strada, costringendo a fermarmi. Mitra spianato. Beh, lei è armofobico? Certo, sono armofobico, io detesto le armi. E dunque che è successo dopo? Io sono gandiano, capisce? Certo, e che è successo dopo? È successo che mi ha chiesto con una certa veemenza la patente e la carta di circolazione, però non avendo in tasca la patente veneta. Patente veneta? Io ho comunicato, guarda, scusi, io ho detto, io non ce l'ho in tasca la patente veneta, però... Ma scusi, lei non c'era la patente italiana? Non ce l'avevo dietro, cioè io l'ho conseguita, però non sono obbligato a portarla presso. Beh, italiana, scusi, quando lei guida, in realtà in Italia, lei è costretto a portare dietro la patente italiana? No, non sono costretto a portarla dietro. Beh, però poi la deve presentare, prenderà una multa. Posso, ma sì, ma se prende una multa mi scusi, ma sono affari miei. Sì, no, poi. Certo, per carità. Cioè. Ma lei non si sente italiano, scusi, De Pieri? No, ma non è che io non mi sento, io non sono italiano, punto. Lei non è italiano? No, ho già ricusato la cittadinanza italiana nel 2010, che io non sono in territorio italiano, qui sono in territorio veneto. Cioè, Padova è in territorio veneto? Certo, Padova, sì che è territorio veneto. Perché, se non mi sbaglio, anche leggo... Bergamo, anche Brescia. Se non mi sbaglio, lei è presidente dello Stato di Padova, giusto? No, io sono presidente del governo nazionale Veneto. Di tutta l'area. Il nostro governo in esilio è situato a Trieste. Lei poi ha fatto marcia indietro tentando di fuggire al controllo, mi risulta. Quindi un capo di Stato lì, praticamente. Assolutamente. Io ho dei filmati. Sì. che screditano totalmente la versione dei carabinieri. Loro dicono che lei ha travolto un militare in retromarcia. Allora, mi scusi, un conto è dire. Dicono, secondo... provata. Quindi non basiamoci così sulle ipotesi. Beh, secondo lei non è così, insomma. No, non è secondo me, non è così, punto. E io ho le prove, capisce? Dove l'hanno portata? L'ha portato in caserma, cos'è? Una notte? Sì, una notte, era anche sporca, ha denunciato queste cose qui già alle Nazioni Unite. Alle Nazioni Unite? Cioè, cosa ha denunciato alle Nazioni Unite? Sto denunciando che la caserma era sporca. Sì. C'è la sporca di... Ma lei la merda da parte sua. La merda? Sì, la merda, come la chiama? Cioè, la cacca, dove era sporca di cacca? Le feci. Dentro dove? Dentro la caserma? Io era già cagato, capisce? E lei ha cagato pure lei? No, non ho cagato. Ah, che ne so. Ma sono stitico. Sì? E c'erano anche delle bestioline che mi hanno rimosso, mi hanno che... Eh sì, appunto, non mi hanno dato a bere. Non ne hanno dato a bere? No, non mi hanno dato a mangiare, quindi hanno violato anche le convenzioni di Ginevra, sì, sul trattamento dei prigionieri. Ma quale prigionieri? E gli hanno fatto anche una serie di multe? Chi? I carabinieri, per quello che è successo. Ma quale prigioniero? Ha fatto un verbalino del cazzo, ma io non l'ho firmato. Da chi è stata emessa questa patente veneta? Veneto è sempre emessa dal governo sino al Veneto. Cioè, da lei stesso? Se l'è fatta da solo? Certo. No, come da me stesso? Beh, scusi, lei è il presidente. Ma presidente di cosa? Guarda che non sono solo io, siamo 50.000, Sì, 50.000. 50.000 iscritti, sì. Aspetti che le passo il mio collega, che le vuole fare un paio di domande. Aspetti solo, scusi, De Piede. Sì, presidente? Sì, prego. Presidente del governo Veneto, no? Governo nazionale Veneto. Governo nazionale. Quando finisce questa buffonata? Perché ne ho sentite fin troppe. Ho sentito che non esiste. Buffonata finisce? Ho sentito. Finisce di fare la puttana. Ho sentito che non esiste. Che l'arma dei carabinieri è stata sciolta. Mamma, saluta Cruciani e Parenzo. Che cazzo sono? I conduttori della Zanzara, ma quelli che ascolto sempre. Ah, quelli che mi ci vengono per cazzo. Sì, loro. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da... Perché porti dei limiti? Saxo Bank. Fai trading ovunque, da qualsiasi dispositivo. La Zanzara. Andiamo a Torino, Ciro, vai. Ciro? Ciro? Niente. Lucy Pistoia, vai. Pronto? Sì, dimmi Lucy, dimmi. Cruciani? Pronto? Ciao tesoro, dimmi. No, tesoro. Senta, io resumo in una sola parola. Io sono brasiliana. Sì, sei brasiliana, sì. Allora? Se sei diventato il mio chiodo fisso ogni sera da qualche mese. Sono diventato il mio chiodo fisso. Mi piace tantissimo. Sì, aspetta, fermati un attimo. Sì, fermati un attimo. Ma che fai nella vita, Lucy? Io lavoro. Che fai? Sì. Lavoro in un bar. Lavori in un bar? Va bene. Fai la cameriera in un bar. Che significa? Io ho un fidanzato anche. Vabbè, sei fidanzato, ma... Ma non mi impedisce di sentire... E se mi piace proprio in tutti i sensi. In che senso? Non avrei mai pensato che mi ritornasse la telefonata. Ma perché hai chiamato? Scusa. Perché non sapevo come era fatto, come si sei. E ti ho visto qualche volta in trasmissioni televisive. Ecco, ma il tuo fidanzato... Vabbè, ma il tuo fidanzato non è, non è geloso di questa tua passione? Ma no, lui vive per no, a casa sua. Io sono libera. Sei libera? Certo, brasiliana. Vabbè, ma che c'entra? Ah, quindi non è brasiliana che... libera? Vabbè, non è che tutti i brasiliani sono liberi. Siamo un popolo così, temperamentale. Va bene, tesoro. Oi, oi. Cosa mi volevi dire oltre al fatto che sei pazza di me? Che tu sei fantastico. Vabbè, questo vabbè, l'abbiamo capito. Cosa ci vuoi dire? Mi piacerebbe passare un'ora con te. Beh, un'ora adesso, un'ora mi sembra anche troppo. Mi sembra mia. Una proposta, evidente. No. Ma un'ora in che senso? Spiegami. Sono sicura che te vorresti una notte intera. No, ma io no, guarda, ti assicuro, non ho bisogno. Già c'ho troppi casini, vita mia. Ma anche io ho bisogno, però te mi piace. Ma non lo so, ma adesso no, andiamo nel dettaglio. Voglio no, dire, neanche io. Ma cosa vorresti? Non ho capito che cosa vorresti fare in quest'ora. Niente, volevo sentirti, basta, no. Va bene, solo questo. Vabbè, ti do un bacio, dai, ciao tesoro, ciao. Ciao. Giuseppe Salute. Da Varese, vai. Ciao Cruciani. Dimmi, una cosa dimmi. Rapidissima. Dimmi. Sì. Io voglio fare un appello al direttore napoletano sì. per il tuo licenziamento immediato. Ne hanno già fatti tanti, ecco. Guardi. Ne hanno già fatti parecchi, sono tutti caduti sì. nel vuoto. Allora, benissimo. Fanne pure tu un altro, mettiti in coda, già c'è tanta gente che No, ma ti faccio una proposta. Dimmi, fammi la tua proposta, dimmi. Al tuo direttore, sì, cioè, dovresti mettere sul sito sì. un link, sì. un'apertura, una possibilità di votare per il tuo licenziamento. Ma questa è interessante. Questa sì, cosa. Potrebbe essere interessante. Potrei accogliere questa proposta, Giuseppe. Ecco, guarda, mi è venuta questa idea. Dico, bravo, sei molto bravo. Pensavo che fossi una testa di cazzo. Invece in realtà sei sicuramente testa di cazzo, come me, peraltro, perché anch'io lo sono. Però siamo ambedue delle teste di cazzo. Siamo ambedue delle teste di cazzo. Lo possiamo dire o no? No, possiamo dire che guarda, se tu autodefinisci di testa di cazzo, io non mi ritengo. Va bene, ma io penso che tu un po' lo sia. Tu penso che sto facendo una proposta concreta. Sì, no? Concreta, concretissima. Io potrei anche accoglierla questa proposta. Non è una proposta così bislacca. È una proposta anche intelligente. Anche perché con la questione tu dici ma mettiti in coda eccetera, liquidi l'argomento. Invece non sto liquidando l'argomento. È una noi come sai accogliamo tutti qui, anche le persone come dire che sono evidentemente fuori di testa. Tu non sei fuori di testa. No, sembra lucido. Guarda, io ti ascolto da 7-8 anni. Vuoi che io sia licenziato? Sono arrivato adesso a questa considerazione. Bene, dopo aver aspettato in onda, essere intervenuto, aver chiamato, eccetera, eccetera, vuoi dire proponiamo il mio licenziamento. Benissimo. Potrei darti una mano in questa tua idea, in questa tua proposta, magari pubblichiamo questo piccolo sondaggio come i sondaggi di Libero, no? Sondaggi folli di sì, Libero, speriamo. Lo facciamo su noi stessi, potrei anche farlo, capito? Benissimo, ciao. Ti ringrazio. Ciao. Enzo Lecce, vai. Senti, io sono un collega, sono un giornalista. Ciao Enzo, ciao. Ero per strada e ho sentito la trasmissione in maniera tutto casuale. Sì. Guarda, devo dirti, ho trovato l'intervento della signora Michele Di Borgo. La tua provocazione è un po', come dire, sopra le righe. Ma questo chi lo dice, tu? No, lo dico io, sto esprimendo un'opinione. Come ah, è la tua idea, Sì. Le mie provocazioni sono sopra le righe. No. Bene, ma accogliamo questa tua critica volentieri. No, scusami. Io credo che se tu sei un giornalista, deontologicamente sia andato sopra le righe. Sì, denunciami all'ordine dei giornalisti. Si tratta di fare la denuncia, ma non devi farlo splendido. Perché io non sto facendo splendido. Sei tu che hai chiamato, amico mio. Sì, non è che sono io che ho chiamato. Allora, se fai non sto facendo lo splendido. Non sei tu che decidi che cosa è corretto e che cosa è scorretto, capito? No, allora non lo stabilisco. Infatti, se poi ci deve essere un giudice a Berlino, lo troviamo. Facciamo un giudice a Berlino. Bene, vuole a Berlino. Come ritieni di fare un servizio pubblico utilizzando la radio? Non lo so, quello lo dici tu che faccio servizio pubblico. Allora fai un'altra cosa. Faccio un'altra cosa, sì. Può darsi, sono cazzi miei quello che faccio, non sono affari tuoi. Allora, questa cosa credo sarebbe qualcuno che lo stabilisce. Benissimo, vai di denuncia. Ma non faccio le denunce, faccio gli esposti. Fai gli esposti, quello che è, bravo. Deontologicamente è stato corretto. Ma fai tutti gli esposti. Tu hai fatto una provocazione fuori sopra le righe. Ma fai tutti gli esposti che vuoi. Siamo qui ad sono qui ad aspettare. Ma la sai quanti ne hanno fatti gli esposti all'ordine della commissione di disciplina? Anche lì non ne possono più. Perché non lo chiedi a delle cartacce? Se conosce quella cosa, lo chiedi a tua sorella se conosce quelle pratiche. Scusami? Avresti potuto chiederlo a tua sorella, no? Se conosce quelle pratiche. Scusami, non ho capito. Alla signora. Io, a parte che chiedo quello che voglio, tu la conosci questa pratica sessuale? Ti sei mai fatto inchiappettare? Ma non, con un... ma non devi farlo splendido. Ti sei mai fatto inchiappettare, sì o no? Ma tu sei uno che fa lo splendido, perché non dici tu che cosa hai fatto nella vita? La roba incredibile, guarda. Cioè, questa qua chiama per criticare quello che io ho chiesto a un'ascoltatrice, no, capito? Criticare, ti dico che deontologicamente è scorretto. Deontologicamente scorretto. È deontologicamente scorretto. Divertiti. Mi diverto molto, al contrario di te, mi diverto moltissimo. Questa è la differenza, capito? Bene, aspetta, aspetta un attimo, fermo lì, Enzo. Emiliano dalla provincia di Milano, senti questo ascoltatore, Enzo, un attimo solo, c'ho solamente una riga scritta sopra. Fermo lì, Enzo, ti prego, io non ce l'ho con te, per carità. No, ma io neanche. Aspetta, poi appunto, però. Sto solo un'opinione. No, per carità, però aspetta questa cosa qua. Emiliano, dimmi. Sei sicuramente opinabile. Aspetta, dimmi. Ciao Cruciani, ciao a tutti. Allora, a proposito di questo argomento qua, vedi, io chiamavo. Quale argomento? Non quale? Dell'argomento dello strap-on. No, non era questa la cosa. Mi è capitato di parlare con un'ascoltatrice che si chiama Michela. E siccome nello stesso momento c'era una notizia che mi era apparsa su Dagospia su una pratica sessuale che si chiama pegging, ho chiesto a lei: ma tu hai mai provato una cosa di questo tipo? Mai sentita. Punto e basta. Beh, mai sentita, perché tu sei. No, io volevo dire. Vediamo un attimo di cosa io volevo dire che siccome ho lavorato per un anno e mezzo in un sexy shop, sì, e io vi posso dire che è così, la maggior parte delle coppie eterosessuali, la maggior parte di quelle che vanno nelle sexy shop, non della maggior parte in generale, sì, ma io ti dico che la maggior parte delle coppie che entravano, donna e uomo, compravano lo strap-on perché le donne, che è una cintura fallica, diciamo, la cintura fallica, perché le donne lo volevano usare con gli uomini, oh, e benissimo, la maggior parte, aspetta, degli uomini lo fanno. No, ma la maggior parte degli uomini che frequentano il tuo sexy shop, quello dove lavorano. No, io non ci lavoro più, ci ho lavorato. Specifichiamo, non è che ci sono dei sondaggi su questo, non è che la maggior parte delle coppie si invertono i ruoli, diciamo. No, assolutamente, ma ti dico che c'è un grande numero che ti posso confermare che è così. Va bene, ma io lo so, perché il bigottismo non serve a un cazzo. Bene, diglielo a Enzo da Lecce, Enzo. Il bigottismo perché è così, perché aspetta, aspetta un attimo, Emiliano, aspetta. Non voglio entrare nella camera da letto delle persone, non è quello che mi interessa. Io ho detto semplicemente un'opinione rispetto al fatto che la signora si è sentita provocata, è stata una provocazione sopra le righe, punto. È un'opinione come tale opinabile, tu sei un avviso contrario, qualche altro telespettatore lo stesso, io ti ho espresso la mia opinione. Vabbè, hai sentito Emiliano? D'accordo? Ma il fatto è che questa è la vita di tutti i giorni, molte non è che tutti si occupano di queste cinture, vecchio non mio, tutti. Come si chiama questo qua? No, Cruciani, Parenzo, non tutti. Ma io ti posso dire che c'è un grande numero, nel senso, il sesso è bello viverlo. Ma quello sicuramente, ma non è che tutti hanno queste, capito, cinture di cui scopro ora, diciamo. Perché mi chiama Baldini? Perché mi chiama Baldini? Non capisco perché. Ma comunque Parenzo, io non sono quasi mai d'accordo con te, però questa sera sono d'accordo con te sul fatto della prostituta. Su questa cosa qua, secondo me sbagli. Ma quale prostituta di 80 anni, quella vicino all'Eco, sulla strada? Sì, dai, no, va bene. Io leggo la cana del gas, dai. Ma sarà ridotta la cana del gas? Io leggo quello che c'è scritto su un giornale oggi. C'è scritto che a 80 anni si è messa a fare la prostituta perché deve mantenere il figlio che è quasi cieco. Benissimo. Alla domanda precisa, ma lei si vergogna? No, non mi vergogno per niente. Anzi, che deve dire, poveretta? Anzi, punto. Anzi, dice. Poi, dopodiché, magari sarà la persona più disperata del mondo. Così non sembra, capito? Marco Baldini, che cazzo vuoi? Chiamami a un numero normale. Non mi chiamare qua su FaceTime. Forse ti sei sbagliato, dai. Chi c'è? Emiliano c'è? Sì. Enzo, se n'è andato? Enzo, te ne sei andato? Enzo. Va bene. Fammi una denuncia, dai, ti prego. È un po' di tempo che nessuno. È un po' di tempo che non mi arriva una denuncia, dai. Solo 10 giorni. Solo 10 giorni. Come fare denunce, credi? Dai, ciao. In che sexy shop lavoravi, Emiliano? Dove? A Milano? Sì, in provincia di Milano, però non posso fare nomi. Non volevo dire il nome. Dove? Ciao. Matteo, provincia di Ferrara, vai. Cruciani, ciao Parenzo. Ciao, cara. Guarda, io chiamavo perché sono scandalizzato dalla notizia della prostituta di 80 anni. Sono scandalizzato. Cioè, ma ti pare che una che fa la prostituta, che ha 80 anni e che l'ha fatta anche in passato, non posso avere i contributi del lavoro che ha fatto fino a 80 anni? No, aspetta, ma l'ha fatta per un breve periodo nel passato, così almeno c'è scritto. Cioè, ho capito, ma riconosci. Se uno ha lavorato in nero, è chiaro che contributi deve avere. Che contributi ha? Dovrebbe essere regolarizzato, cavolo, ma poverino. Ma ci hai chiamato per dire la cosa su cui siamo d'accordo tutti, la regolarizzazione della prostituzione. Dai, ma su. Mi sembra che Parenzo non sia d'accordo. Visto assolutamente che sì, sono a favore della legalizzazione. Alle persone che vanno a prostitute se li chiama cos'è, miserabili. Miserabili, no, ma c'è lo sfruttamento, certamente. Quando ma lo sfruttamento di cosa? Ma se uno fa la prostituta è un lavoro come un altro. Ed ecco questo... come il mondo... Va bene, vada sulla salaria, vada a vedere sulla salaria e mi dica se quelle lo vogliono fare veramente o c'hanno il magnaccio, il pappone e quant'altro. Vada sulla salaria. Quelle che hanno il pappone, ma Matteo, ti devo lasciare, ciao, aspetta, Paolo da Roma, dimmi Paolo, veloce, conclusione, vai. Sì, velocissimo. Allora, intanto voglio dire, sono d'accordo con te sul fatto che la volgarità non è parlare di sesso, ma essere disonesti intellettualmente. E un'altra brevissima premessa e poi un'affermazione breve. Ritengo anch'io come Parenzo che Trump, e a differenza tua, che Trump sia un pericolo per l'America e per l'umanità. Però mi ha colpito molto, molto negativamente, credo l'abbia detto in buona fede e spero che rifletta, quella frase molto razzista e volgare, questa sì che ha detto Parenzo, dicendo che Trump rappresenta i peggiori istinti americani. Sì, una cazzata. Voce è anche razzista, è anche razzista. Ma che razzismo è un'altra roba. Razzista totalmente. Ma è razzista nei confronti dei direttori di Trump. Ci sono nelle società, certo. Qualcuno mi contesta, dice la radio di Confindustria fa campagna per Trump. Ma di che parlate? Ho solamente detto che mi piacerebbe che vincesse Trump, punto. Poi se non vince o non vince non me ne può fregare di meno. Qui non c'è nessuna campagna per Trump, anche perché Trump in America e non frega nulla a nessuno per adesso. Ciao ragazzi, a domani. Col dito, l'orgasmo è garantito. Ricordati, dove si mette non si sa. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.